Sura della fibra di palma, capitolo 111 del sublime Corano, rivelata alla Mecca, consta di 5 ayat e discesa dopo la Sura 1, Al-Fatiha. Nel nome di Allah, il sommamente misericordioso, il clementissimo, periscano le due mani di Abu Lahab e perisca egli stesso. Non gli sarà di nessun giovamento la sua ricchezza né ciò che guadagnò. Sarà mandato arrosto in un fuoco fiammeggiante e sua moglie, la portatrice di legna, porterà al collo in guisa di collana una fibra di palma.